Adesso Gigi, per farsi perdonare, vi offro un bel caffè. Viva il caffè! Viva. È sicuro che è quello buono? Più lo mandi giù e più ti tira su. I mitici Yardbirds sono il soggetto del test attitudinale di quest'oggi. Sa che per la parte blues erano in qualche modo discepoli di John Mayall, il famoso bluesman inglese, anglosassone, colui che ha insegnato in Inghilterra a suonare il blues a tutta una generazione di chitarristi. Quale dei chitarristi ipotizzati nel test attitudinale non ha mai suonato con gli Yardbirds? Forse Jimmy Page? Assolutamente no. No, risposta sbagliata. Entrò come bassista, pensate un po', al posto di Samuel Smith all'inizio del 66. Forse Eric Clapton? Assolutamente no. Ma no, signori, era chitarrista già della prima formazione. Esatto. E allora la risposta esatta era la C. Jimi Hendrix non suona mai con gli Yardbirds. Fosse stato inglese, fosse stato lì in Inghilterra più di casa, sicuramente ci sarebbe passato. Ma essendo lui statunitense di Seattle, aveva origini diverse. Però che grande, che grandi chitarristi, che gran periodo. Ah, che svisate, che assoli, che feeling! Così che va a iniziare l'ultimo blocco di diretta di questo venerdì 21 di marzo 2008, l'anno della svolta contro il muro. Buona giornata, come al solito, dall'Ariele e da Mister Trombetta. Scompaginiamo la scaletta di quest'oggi. Avevamo un po' di cose da farvi sentire. Vi avviso che alcune cose le taglieremo, ma altre no. E quell'altra no sarà una di quelle... un po' alla pane, burro e rock and roll, di quelle un po' difficili da digerire, ma che noi vi facciamo sentire lo stesso. Sapete che ogni tanto abbiamo il buzzo di andare su internet e scovare personaggi importanti. Già vi abbiamo presentato Jerry Phillips, lo scorreggione con le mani. Ecco, oggi vi presenteremo un altro firmato importante, ma già nella puntata di quest'oggi qualcuno faceva notare come molto probabilmente, se avessimo gli autori di Fiorello, potremmo batterlo, ma io sono orgoglioso di avere autori radiofonici come i miei radioascoltatori e le mie radioascoltatrici. In particolare ringrazio Black, Andrea, che via mail mi fa una segnalazione per la quale appunto scompagino la scaletta di quest'oggi. Purtroppo ieri è morto John Ewer. Aveva 84 anni, detta così forse non vi dirà nulla, però posso dirvi che dal 1967 al 1998 era l'attore che ha interpretato il barbuto e sorridente marinaio dei bastoncini di pesce Findus. Quindi ieri è scomparso Capitan Findus. Le pubblicità dei bastoncini sono state la sua vera fortuna, è diventato famosissimo grazie al ruolo di capitano. Pensate che addirittura in un sondaggio del 1983 venne incoronato come il secondo marinaio più famoso del mondo dopo il capitano Cook. Questo per farvi capire l'importanza del Capitan Findus. Io personalmente lo ricordo come l'uomo che mi ha insegnato che si poteva mangiare del cibo surgelato. E il pesce poteva essere surgelato. Guardate che non sono cose da poco. Per ricordarlo, visto che non c'è Spadino e la notizia mi è arrivata 2 minuti fa, io ho fatto una breve associazione di idee. Spero che il Capitan Findus possa apprezzare. E io programmerei Rime of the Ancient Mariner degli Iron Maiden. Questa è per te, mitico John. Ti ricorderemo sempre. Place.

stazione internet. Andiamo a scoprire le gioie della rete, mio caro Antoni. Sì, una finestra, mi lasci usare questa immagine retorica una volta tanto. Me lo lasci fare, me lo lasci la fare. Faccia. Posso? Faccia. È la nostra finestra sul mondo. Ne abbiamo scoperti di personaggi fino a oggi. Sì. E, oh, è duro. Bizzarri, strani, il filmato particolari. Di oggi è durino è da tosto, sopportare. Tosto. Si chiama Worst Band Ever. La peggior band di sempre. Sottotitolo I Troppo Avanti. Sottotitolo ancora, potete dirlo forte, il pezzo più brutto che abbia mai sentito in vita mia. L'esecuzione più scalzacane che uno possa immaginare. Sappiamo che è un po' azzardato tentare di farvi vedere queste cose alla radio, ma noi di Pane, Burro e Rock and Roll ci proviamo comunque. Esatto. Sono un gruppo di ragazzini su un palco gigantesco, nessuno li sta guardando e loro interpretano The Final Countdown degli Europe. E soprattutto non hanno niente da perdere. No, io farei partire il filmato, se Spadino è d'accordo, e porrei attenzione sull'attacco. Mi dà un conto alla rovescia, signor Antoni? Sì, naturalmente. 4, 3, aia, 2, 1, è andata. Vai! Final Countdown. Ecco che già dici l'attacco. Era un po' così. La tastierina è di quelle raccattate lì. Sì. Ma sentite inesorabile, con quei suoni trapana orecchio, trapana timpano, inesorabili. Attenzione, perché la prima sorpresa arriverà ovviamente dal cantante. Ce la farà oppure no? Vediamo, sta per attaccare. Ancora qualche battuta. Aia, aia. È calante, è solo calante. Della serie, per la serie nessuna idea dell'intonazione. Trasmettiamo quanto segue. Abbiate pietà, dobbiamo aspettare fino all'assolo. Perché ci vuole. Attenzione, il ritornello lo azzecca sicuro. Vai. Sì, eccolo che arriva. È calantino, però. Però è coerente. Ha la sua tonalità e tiene quella, insomma. È stonato, ma tiene la stonatura. Mantiene la stonatura. Lei ci insegna che se devi stonare, stona bene, insomma. Giusto? Fallo fino in fondo. Aiuto, seconda strofa. Avanti. Il batterista sembra che ce la faccia. È quando arriva da solo che poi si lascerà andare. Perché noi ovviamente l'abbiamo già visto. Ecco, sì. Non ci facciamo mancare nulla. Il chitarrista un po' gli sta dietro. Secondo me singolarmente ce la potrebbero anche fare. È stare insieme che non gli viene. Secondo ritornello, dai che ce la fai! No, non ce la fate. Uno dei rari esempi nei quali il mettersi assieme amplifica il disastro. Problema. Senta, concentriamoci, sta per arrivare là solo, ok? Sì. Maestro, attenzione, lo lancerà la batteria. Sentite qui, attenzione. Arriva, arriva. Che passaggio di batteria era? Della serie ci provo, ma non ci riesco. Ma sentite, tanto. Anche il chitarrista la sbaglia. Beh, sono tutti coerenti, allo stesso livello. È giù di tonalità anche lui, è come se stessero seguendo un'altra canzone. Tastiera, quando ritorna, adesso ritorna. Attenzione. Io chiedo scusa ai radioascoltatori, ma non potevamo non farvela sentire. È un pezzo raro, anche perché diciamocela tutta, perlomeno per quanto mi riguarda, è un bel sollievo scoprire che c'è di peggio di quanto io possa mai fare nei miei momenti peggiori. Non abbiamo sottolineato che loro suonano di fronte a un prato gigantesco vuoto. Ogni tanto passa qualcuno, ma anche davanti all'inquadratura fissa. Esatto, ma l'attenzione al gruppo nessuno la dà, chissà perché, tra l'altro. Infatti il palco è gigantesco e ogni tanto alla destra si intravede un tecnico che sistema qualcosa e poi se ne va. Attenzione, il finale! Non ci arriva, non ci arriva. Non l'ha presa. Non ci arriva. No. Fa venire la pelle d'oca. Sembra che stia per terminare. L'unico dispiacere è non essere riusciti a scoprire il nome di questo gruppo. La peggior banda mai esistita. Chiusura è carina. The worst band ever, grazie! La chiusura era efficace però, interessante. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Countdown engines on. Check ignition and may God's love be with you. David Bowie, Space Oddity, la fine almeno per oggi, venerdì 21 marzo 2008, l'anno della svolta contro il muro. DJ Ariele e Mr. Trombetta sono felici di augurarvi una buona Pasqua, si dice così in questi casi, no? Fate i matti, mi raccomando, e ci risentiamo lunedì, no, buonanotte, martedì appunto. Dovrei cambiare anche il finale, allora aspetta che lo cambio. Pane, burro, rock and roll tornerà martedì. Scusate ancora per The Worst Band Ever, ma non potevamo non farvelo vedere. Qualcuno ha commentato: non sapevo che i Pei avessero fatto una cover di The Final Countdown. Simpatici, simpatici fino alla fine, guarda, bravi. BBR a martedì. Non strozzatevi di colombe, uova e quant'altro, eh. Pane, burro e rock and roll. Addio Capitan Findus. La tua colazione rock. Ricorderemo sempre pane, burro e rock and roll. Trago tu tra tu tra con tra. Trugo tu un tran con tru con tra. E devi godere. Baru baru. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Yo, yo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rockers. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Divertitevi come matti. Sono le 9. Ah, per fortuna ho paura partisse quello là. Vorrei tanto essere altrove. Sono le 3. Non ti preoccupar. Sì, perché? Che domani tornerà. No, ragazzi, è Pasqua, torniamo martedì.